nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. E più c'è sole, più, bisogna dire la verità, viene voglia di iniziare in modo frizzante, allegro, possibilmente. Certo, le notizie non è che aiutino più di tanto, però pensateci voi, se c'è una notizia in particolare che vi ha colpito questa settimana, inutile, vi sto a suggerire, sono moltissime, dall'emergenza Lampedusa, come collegata all'emergenza immigrazione, la Libia, i disordini, i vari rivolgimenti nel Nord Africa, ma non solo, e poi diciamo le sedute movimentate cultivamente del Parlamento, della Camera in particolare, e cos'altro? Il delitto dell'oggiata, ecco. E a questo proposito mi viene in mente, ecco, perché non ci sono più le mezze stagioni? Ogni settimana ce lo ricordiamo per un qualche motivo. Intanto il numero verde ve lo ricordo per le vostre libere opinioni sui fatti della settimana è 800 24 00 24. Ecco, mi viene in mente che ciò che dimostra che non ci sono più le mezze stagioni questa settimana è che non esiste più il delitto perfetto. Uno prima diceva passa un po' di tempo, basta, non mi scoprono più, e chissà quante anche nella storia. Invece avete visto, io trovo che sia piuttosto affascinante anche nei suoi aspetti lugubri, no? Il fatto che dopo 20 anni, se hai commesso un delitto, possono venirti a cercare e inchiodarti con queste nuove tecniche investigative, quelle del DNA. In realtà uno può dire, beh, questa tecnica del DNA è un po' che vige, però sul delitto dell'oggiata, per esempio, era stato il marito della povera vittima, della contessa Filo della Torre, a chiedere 3 anni fa di riaprire l'inchiesta, pensate, con la sua determinazione. Ecco, io trovo che questo ci dimostri che anche con il delitto di Via Poma, no? Qualche mese fa era stato condannato, poco tempo fa, quello che era l'ex fidanzato della povera vittima anche di Via Poma, anche lì 21 anni fa, ed è stato per ora condannato in primo grado a 24 anni l'omicida di Simonetta Cesaroni. E poi adesso si sta cercando anche col caso Claps, avvenuto nel 93, sapete, no? La storia veramente è così incredibile di questa vicenda, e anche qui forse si arriverà al colpevole. Poi è anche vero che ci sono sempre le mezze stagioni, perché tanti invece passano impuniti, però qualche speranza, insomma, che la giustizia prima o poi bussi alla porta del colpevole ci può essere. Devo dare una certa attenzione, come sempre, anche ai vari affezionati alla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Se la volete cercare, ricordatevi Roberta Giordano, Non ci sono più le mezze stagioni. E per esempio c'è Masayume, che credo che sia un internauta giapponese, dal nome, da quello che mi scrive. A proposito, per esempio, dell'emergenza Lampedusa, dice: in una nazione ben organizzata c'è sempre spazio per tutti. Il Giappone, che in questi giorni è sulle prime pagine, ha il doppio degli abitanti dell'Italia distribuiti su una superficie equivalente, con un territorio ben più impegnativo. Quindi interessante un punto di vista di un giapponese. Poi Maria Chiara da Firenze, invece, sempre sull'emergenza Lampedusa, dice che vuole condividere questo articolo di Chiara Saraceno, nota sociologa, che propone alla Chiesa, insomma, che le strutture religiose accolgano gli immigrati. Poi magari ci andremo anche su questo argomento per capire cosa ne pensate e cosa ne pensa il mio opinionista estemporaneo, che andrò a presentare tra pochissimo. Poi ho chiesto anche di dare su Facebook un titolo a queste sedute, diciamo, un po' di intemperanza, piuttosto vivaci, esuberanti, della Camera, e vi leggo qualche titolo che gli ascoltatori e ascoltatrici hanno dato. Avremmo preferito non vedervi, per non parlare dell'uso della stampa alla Camera, cioè tirata qua e là. Poi un altro ascoltatore ha scritto Circo Massimo, poi un altro titolo è Vergogna, un'altra è Confusione Totale, un altro ha scritto Era meglio morire da piccoli che vedere sto scempio da grandi. E poi questa, diciamo, a Firenze si dice questa cosa, in realtà non ha considerato una parolaccia in toscana, gli è tutto un troiaio, gli è fatto, è tutto da rifare, direbbero a Firenze. E poi l'ultima: una volta c'era il test antidroga, ma non lo fanno più. Ecco, diciamo, questi sono i commenti sulle intemperanze parlamentari. Dopodiché direi, a questo punto, mentre voi vi concentrate sulla notizia secondo voi della settimana, 800 24 00 24, vado a presentarvi, signore e signore, l'opinionista estemporaneo di oggi. Fellotto. Buongiorno, addirittura il rullo di tamburi. Hai sentito, per creare un po' di suspense e anche per creare solennità, allora, diciamo, enfasi, no? Sei contento, Bruno? Oh, Bruno Manfellotto è direttore del settimanale L'Espresso, e io credo che un po' tutti, insomma, siamo tenuti a essere informati sull'attualità, i giornalisti in particolare, ma credo anche i comuni cittadini, no? Per capire quello che succede, che ci sta a cuore, in che mondo viviamo, in che contesto siamo. Però forse un direttore, Bruno, ha forse la responsabilità, credo, di avere nella testa un po' tutto, un panorama molto, molto generale, nello stesso tempo approfondito di tutte le notizie. Quindi tu cosa ci avrai in questo momento in testa, Bruno? Ma intanto no, volevo riassumere quello che dicevi prima dicendo che non esistono più le mezze stagioni, sì, ma per fortuna esistono i RIS, perché nel caso dell'Olgiata, nelle nuove tecniche di indagine che hanno ormai affinato, per riuscire a risalire al DNA della persona che si sta cercando, basta proprio un non nulla. Prima ci voleva, bisognava trovare un rimasuglio, diciamo così, molto consistente, una traccia, un'impronta molto consistente. Adesso le cose sono talmente affinate. È incredibile o no, Bruno? Sei affascinato da questa cosa? Ma vedo che oltre ai delitti che non sono più perfetti, anche i finanzieri non sono più perfetti, anche i gestori di patrimoni non sono più perfetti, come ha dimostrato il caso di quello che è stato chiamato il Madoff alla matriciana, no? Cioè di quel signore che ha imbrogliato parecchi VIP lì a Roma, ha incastrato un sacco di persone facendogli comprare cose più incredibili. Senti, ma tu hai impressione, Bruno Manfellotto, che è perché non ci sono più le mezze stagioni o c'erano anche prima e si scoprivano meno, secondo te? No, guarda, mai smentire questo luogo comune che non esistono più le mezze stagioni. Teniamocelo dura. Dovresti anche aggiungere un signora mia, per essere proprio preciso. Signora mia, non ci sono più le mezze stagioni. Esatto, però no, ma quello, mai, guai a smentire. Da un po' di tempo in qua ormai non ci sono più le mezze stagioni. Siamo convinti, grazie Bruno, di questo sostegno. E tra pochissimo io andrei a sentire già un ascoltatore che ha chiamato 800240024 proprio dalla Toscana, da Pisa. Però volevo anche illustrare brevemente la copertina del tuo settimanale, l'ultimo che è uscito ieri, Bruno. Respinti è il titolo cubitale, con questo volto nella penombra un po' dorato dalla luna, dai riflettori di un immigrato. Sottotitolo è: sbarcano a Lampedusa soprattutto africani, molti scappano verso la Francia ma la frontiera i gendarmi li rimandano in Italia. Ecco le foto, il racconto dell'inviato dell'Espresso. Quindi avete deciso di dedicare la copertina. Sì, mi sembrava un po' la sintesi, il riassunto di tutto quello che sta succedendo, no? Perché allo stesso tempo c'è la fuga da un Nord Africa in fiamme, dal quale arrivano notizie frammentarie su cui sviluppi nessuno se la sente di scommettere. Arrivano a Lampedusa, dove c'è un'organizzazione pessima, tardiva e male organizzata, ahimè, dal governo, nonostante fossero mesi e settimane che si diceva sarebbero arrivati. Li si lascia scappare, come dimostrano le fotografie. A Manduria, dici, in Puglia. Da Manduria e non solo, li si lascia andare via tranquillamente, sperando che qualcuno di loro raggiunga altre località e alleggerisca il peso sull'Italia. Però arrivano alla frontiera di Ventimiglia, dove Sarkozy ha inaugurato delle nuove forze speciali destinate proprio a questi controlli, per rispedirli indietro. Li rimandano indietro, quindi è tutto del tutto inutile. Senti, se mi permetti, Bruno, io vorrei anche citare la copertina del vostro concorrente Panorama, che è dedicato allo stesso argomento, ma vediamo con una lettura diversa, no? Qui c'è un motoscafo carico di immigrati che si vede da dietro, che va verso un orizzonte, non si capisce se verso Lampedusa, dove la bomba immigrati, giusto soccorrerli, giusto aiutarli, ma dopo è indispensabile mandarli via. Lo chiede l'80% degli italiani in un sondaggio di Panorama. Infatti il titolo cubitale, a titolo a carattere cubitale, tutti a casa, quindi voi respinti, tutti a casa. Ma al di là di questo, Bruno, delle letture diverse ovviamente che può fare l'Espresso Panorama, è comunque, diciamo, una questione molto complessa, no? Sì, ma appunto, guarda, poi è chiaro che poi ognuno ha le sue opinioni. Io comprendo benissimo, fino in fondo, le preoccupazioni di chi vive in una qualunque città italiana e vede il proprio quartiere o la propria città o la propria area occupate da persone che non conosce, che non ha mai visto. Noi siamo un paese che storicamente ha avuto invasioni di ogni genere, siamo il paese dei mille campanili fortificati, non a caso, no? Quindi nel nostro DNA c'è il timore della gente che viene da fuori, no? C'è il timore dello straniero, sempre e comunque. Quindi io comprendo benissimo questo problema. Però ahimè, siccome la questione è diventata impellente e contro la quale non si può fare nulla, perché noi non possiamo impedire che i 2/3 del mondo e soprattutto una media di età di molto giovane, 30-40 anni contro i 55-60 dell'Europa, è un fatto, come dire, demografico e numerico, arrivano e arriveranno, no? Quindi al di là, dici, della solidarietà o dell'accoglienza, arrivano per forza, non è che arrivano per forza. Poi comunque è anche molto facile dire andatevene, mandiamoli via, prendiamoli a calci, perché può essere una reazione, ma purtroppo non risolve, perché tu li prendi a calci una volta e tornano l'indomani. Quindi comunque l'Europa dovrebbe avere, dico l'Europa non a caso, perché noi siamo stati abbandonati dagli altri paesi europei, questa è un'altra cosa. Lo riconosci gravissima. Questo? No, è vero, insomma. Oggi ho visto che il premier francese, un'intervista che ha fatto, mi pare, a Corriere della Sera. Sì, ha detto respingeteli, l'Italia ha ragione, respingeteli. E poi riconosce il fatto che l'Italia non può stare da sola in questa storia, perché anche questo è un altro paradosso italiano, perché noi siamo per tutta l'Europa e per tutto il mondo una comodissima portaerei in mezzo al Mediterraneo, dalla quale partono gli aerei per tutte le destinazioni. Quando però poi arrivano gli immigrati, torniamo a essere non più un paese europeo, ma un paese staccato dall'Europa che deve risolversi i fatti da solo. Quindi sicuramente necessità di una politica europea, necessità di sistemi per accogliere, integrare e naturalmente mandare via tutti quelli che vengono qui con carichi penali, come clandestini e non come profughi, ma per fare questo ci vuole un'organizzazione molto seria, perché chi stabilisce perché uno che scappa dalla Tunisia lo fa perché è perseguitato dai regimi locali o perché è un bandito in fuga, no? Quindi ci vuole un coordinamento di polizie e di governi fondamentale. Però è la nostra nuova guerra questa, cioè se non capiamo che questa cosa va curata, gestita e governata in modo serio da tutti quanti, noi la perderemo sta guerra. Sentiamo allora Giovanni da Pisa, il numero verde 800 24 00 24. Giovanni, a te. Roberta, un saluto a te. E al tuo ospite. Grazie. Ma le notizie sarebbero millanta, come diceva Brera questa settimana. Diciamo una. Sì, no, dicevo, la Russa non è che sia sotto, credo io, sotto effetto di stupefacenti. Penso che ministro la Russa? Sì, ministro la Russa. Penso che quando sia uscito e ne abbiano buttato le monetine addosso, lui si sia montato la testa. Dici. Semplicemente pensando al passato, alle passate monetine. Si è sentito uno statista per le monetine. Si è sentito uno statista, è tornato dentro e ha fatto quello show vergognoso. No, la notizia è quella del viaggio lampo di Berlusconi a Lampedusa. Sì. Ci sarebbe da dire molte cose, insomma, sono state tutte dette. Fai una sintesi. Quelli che sono. No, sì. Il discorso del casino, del campo da golf, ieri sentivo che mantenere un campo da golf a Lampedusa è impossibile perché manca l'acqua. Perché lui ha promesso tra le varie cose di fare un campo da golf. Queste cose le dice, poi sono parole al vento. C'era parecchio vento, tra l'altro. Il succo del discorso è questo, è offensivo. Ecco, è offensivo nei confronti di chi lo ascolta, ovviamente soprattutto di chi lo sostiene. Io a volte penso che chi lo sostiene abbia avuto un mutamento antropologico, però poi mi pento perché insomma sarebbe offensivo molto, sarei offensivo io a mia volta. Quindi offensivo ovviamente verso chi l'ascolta, soprattutto per i suoi sostenitori. Però il fatto è questo, che i suoi sostenitori, essendo appunto lui pensando che siano deficienti. Chi lo pensa? Io penso che lui lo pensi. Anche lui lo pensi. Non è possibile che lui pensi che le persone che lo ascoltano lo applaudono perché sono convinti. Lo applaudono è un momento di distonia mentale, ma poi penso che si riprendano. Il discorso è che pensando che siano deficienti questi, praticamente rimbalza su se stesso anche la deficienza. Cioè, se lui pensa che i suoi sostenitori siano a così basso livello, anche lui si mette a un livello bassissimo, quello in cui secondo me è. Riflessioni da Marte. Ebbene, questa settimana, dalla lente del mio telescopio, puntato come sempre sul globo terracqueo qui da Marte, ho potuto rendermi conto di quanto gli esseri umani sognino e abbiano bisogno di sognare, a occhi aperti naturalmente. Quelli per esempio che scappano da paesi poveri, dittatoriali o in guerra o tutte e tre le cose insieme, sognano di approdare a una vita migliore. Quelli che subiscono l'approdo in massa dei sognatori non ne paventano comunque la presenza o sognano un pifferaio magico che si faccia seguire e se li porti via lontano. E c'è anche Nicole Minetti che sogna, sì, consigliera regionale della Lombardia, compartecipe dell'affare Ruby, che sogna, ha fatto sapere di diventare ministra degli esteri. Si potrebbe pensare forse che sia altezza e mezza bellezza, bellezza e mezza espertezza. Forse la Minetti potrebbe effettivamente rivelarsi esperta di situazioni, diciamo, straniere, soprattutto di questioni d'Egitto, ecco. Ma da Marte questa settimana ho potuto anche avere la conferma che la politica italiana è vivace, è vitale, è viva e lotta con voi. Perché di vera lotta effettivamente si tratta, tanto che qualcuno ha pensato che l'Italia fosse entrata ufficialmente in guerra, o meglio, che la guerra fosse entrata nel Parlamento italiano, o che il caos di Lampedusa si fosse trasferito nell'aula di Montecitorio. Ma lì alla Camera, per carità, si discuteva di cose ben più serie. Certo che se un ultraserbo di quelli che per un pallone scatenano l'inferno fosse passato di là, dalla vitale rissa di Montecitorio, si sarebbe sentito un fallito. E da Marte ho avuto anche come l'impressione questa settimana che sul suolo italiano sia invalsa la moda, abbia cioè preso piede, non so bene se quello destro o quello sinistro, la moda, dicevo, dell'invio. Cioè dell'invio come invito, diciamo, a qualcuno o a qualcosa di andare da qualche parte. La russa manda Fini a fare in Bossi, manda gli immigrati fuori di Ball, il premio Nobel Rubbia manda Veronesi a Fukushima, vada a Fukushima a fare una gita per valutare la scelta del nucleare. Il PD, prima che ce lo mandino, pensa ad andarsene autonomamente, ma poi rimane. Alfano manda la tessera parlamentare in una direzione imprecisata che però, essendo tessera magnetica, viene attratta dall'Italia dei Valori. Tiratori scelti mandano monetine ai politici, qualcun altro manda un giornale che non è l'Espresso, stia tranquillo Manfellotto, in testa a Fini. Insomma, tutto un frenetico mandare. Tanto che si è deciso di cambiare, a pochi giorni dai 150 anni dell'Unità Italica, il tanto sbeffeggiato inno italiano con questo che pare incontri maggiori consensi. Te ci hanno mai mandato a quel paese, sapessi quanta gente che c'è sta, a te ti danno la medaglia d'oro. E noi te ci mandiamo tutti in coro. E va, chi va con la corrente va a cavare. Io so salmone, non mi importa niente, a me mi piace andare controcorrente. E va, che più sei grosso e più ci devi andare. La ritroverai nel posto giusto e prima o poi vedrai c'è provi gusto. Sto scherzando, sto solo cantando, sto solo a scherzare, pardon. Torniamo con i piedi per terra e senza mandare nessuno da nessuna parte, anzi inviterei Bruno Manfellotto, che è il mio opinionista estemporaneo di oggi, Bruno, a commentare se vuoi quanto diceva Giovanni da Pisa. Tu cosa ne pensi di questo intervento di Berlusconi a Lampedusa dell'altro ieri, che poi ha detto che entro oggi mi pare doveva essere sgomberata, sì. Lampedusa, no? Poi vabbè, c'è il vento, però io direi intanto, che adesso un po' più timorati, un po' più prudenti, diciamo, no? Del, intanto vorrei dire che la visione da Marte è abbastanza chiara, anche se poi tutto sommato alla fine mi terrei l'inno, ecco, eviterei di bruciare anche quello, di mandare via mai, anche quello assieme alle tesserine magnetiche, diciamo. Dunque, no, la storia di Berlusconi ha ragione Giovanni da Pisa, è una notizia straordinaria, anche se la mia memoria mi fa notare che è una notizia, diciamo così, ripetitiva, perché lo stesso Berlusconi, lo ricorderai, quando andò all'Aquila a fare il suo show fra i terremotati, doveva fare le vacanze lì, che avrebbe comprato una casa all'Aquila. Sì. Dice che può risolvere comprare una casa nei vari posti. E poi, un po'. Poi andò a Napoli, a Napoli c'era la spazzatura e fece per 2 o 3 giorni una trattativa con la nobildonna napoletana perché voleva comprare una casa anche a Napoli, si voleva sentire cittadino. Poi, come purtroppo si sa, non solo non ha comprato la casa all'Aquila a Napoli, ma in questi giorni ci hanno ricordato che i terremotati che ancora vivono senza la loro casa 2 anni dopo sono 36.000, e la spazzatura a Napoli è sempre lì dove l'avevamo lasciata qualche anno fa, cioè le discariche non sono nuove, non sono state aperte, i termovalorizzatori non sono stati né riparati né costruiti di nuovi, quindi purtroppo due problemi gravissimi per quindi vuoi insinuare, Bruno, vuoi insinuare che anche questa volta la promessa non andrà in porto a Lampedusa a proposito di porti? Ma voglio dire, insinuo e potrei anche scommettere che il 90% di quello che ha detto, dal golf al premio Nobel per la pace al porto come quello di Portofino eccetera, non andranno mai da nessuna parte, proprio ci scommetterei perfino sul ritorno delle mezze stagioni, guarda, mi sembra una cosa impossibile. Io mi auguro, soprattutto per gli abitanti di Lampedusa che in questi anni hanno dimostrato di essere dei cittadini italiani straordinari, perché bisogna dirlo, loro sono anni che ogni anno loro accolgono, accettano e danno ospitalità a migliaia di persone che vengono da fuori, quindi sono stati e sono degli eroi. Quindi soprattutto nel loro interesse io mi auguro che il problema dell'immigrazione e del modo intelligente di arginare e governare il flusso dell'immigrazione ci sia, ma sul campo da golf, il porto di Portofino mi pare alquanto difficile che ci riusciamo. 800 24 00 24, sentiamo Gabriella da Roma, eccoci Gabriella. Buongiorno. Buongiorno. La mia è una domanda. Sì. Vediamo di essere chiare, cioè uno quando abbandona un paese è un emigrante, arrivando a quella di destinazione è immigrante, tranne in Italia, che se non va secondo l'ambasciata come è stabilito dalla Bossi e Fini, diventa clandestino, ha commesso il reato. Allora a questo proposito io mi chiedo, la Francia, l'Austria, altri paesi, quelli di confine, non devono bloccare queste persone perché... sono gente che dovrebbero stare in galera in Italia, cioè perché se uno arriva in Francia può venire tranquillamente in Italia perché è un immigrato, ma uno che sta che è arrivato così in Italia e che ha commesso il reato di clandestinità può passare a altro paese? Gabriella, intanto tu vieni dal Sud America? La mia è una critica alla legge dei Bossi Fini e di tante altre che le abbiamo fatto. Sì, no, è chiaro. Gabriella, voglio sapere, tu vieni dal Sud America? Sì, dall'Argentina. Dall'Argentina. Ti ringrazio, Gabriella. È una domanda. La Francia, credo che in questo momento che uno sia emigrato clandestinamente o meno, insomma, abbia proprio creato un muro, lo spiegava anche prima Bruno Manfellotto, abbiamo sentito della situazione a Ventimiglia, no? Dall'altra parte c'è Mentone o Menton, come si voglia chiamare, però appena arrivano a Ventimiglia rispediti indietro, cioè non riescono a passare la frontiera tra Italia e Francia. Diciamo che Gabriella, quello che sta succedendo in questo momento è un po' più impegnativo e più grave dell'immigrazione anche clandestina che avviene a più flussi, perché qui è tutta una situazione emergenziale che avviene tutta insieme, quindi è difficile veramente da gestire. Io sono d'accordo con Gian Antonio Stella che in questi giorni ha scritto sul Corriere della Sera, effettivamente non abbiamo la capacità di accogliere tutte queste persone, di metterle nelle condizioni di vivere bene e civilmente, però quello che possiamo fare è senz'altro evitare espressioni dal fiore di balla, tutte queste cose, avere considerazione e rispetto, non trattarli insomma come dei sacchi di immondizia, però dice effettivamente la difficoltà c'è, non si può negare. Che dici, Bruno Manfellotto? No, ma infatti non è soltanto un fatto di nomi e di espressioni, che naturalmente sottoscrivo quello che dici, ma io preferirei che al posto delle espressioni non è che si usassero, ma si facessero degli atti di governo concordati con gli altri paesi, perché ripeto, da soli noi non potremo risolverlo mai e da soli non potremo ospitare mai, ma anche se aprissimo, credo che devo dire, tutte le chiese, le parrocchie d'Italia, le case d'Italia, noi in prospettiva non riusciremmo ad accoglierli. Ma a questo proposito, sei d'accordo con quanto mi scriveva su Facebook l'ascoltatrice Maria Chiara da Firenze, che faceva riferimento alla proposta di Chiara Saraceno, no? La sociologa, che diceva vediamo se anche la Chiesa riesce a aprire le sue tante strutture, certo, per dimostrare anche che non sono a fini commerciali ma veramente assistenziali, insomma ne avrebbe insomma di palazzi, di sedi dove ospitare almeno i minori, dice. Ma certo, quella è una proposta volutamente provocatoria, no? E come tutte le proposte provocatorie colpiscono però un dato di fatto vero, cioè è vero che esistono delle associazioni in qualche modo legate o collaterali alla Chiesa che si danno da fare, penso alla Caritas, ma penso anche alle mille comunità, no? di solidarietà sparse in tutta Italia, però è altrettanto vero che le altre strutture, molte strutture della Chiesa potrebbero essere utilizzate per questo, ma anche per fare queste cose, seguiamo nel paradosso provocatorio di Chiara Saraceno, non è che si possono fare su iniziativa della singola istituzione o del singolo, della singola persona o del singolo comune, ci vuole una politica concertata, all'interno di una politica concertata perché non chiedere anche aiuto allo Stato della Città del Vaticano, all'istituzione Chiesa, perché no? Mm. Però deve esserci un accordo, un obiettivo da raggiungere e dei risultati da ottenere, di questo per ora non si parla. E quello che diceva Gabriella ti era chiaro? Tu sapresti rispondere, cioè se un immigrato venendo in Italia compie il reato di immigrazione clandestina, poi è chiaro che la Francia lo deve respingere perché ha compiuto un reato. Ma non c'è dubbio, lei ha ragione, la difficoltà dov'è? Che è chi è che stabilisce chi è profugo e chi è clandestino? No, cioè ci si dovrebbe basare sulle dichiarazioni del, come dicevamo prima, sì, del migrante, no? Quando arriva dice sono profugo, e allora uno dovrebbe accoglierlo in qualche modo. Poi bisognerebbe fare una serie di, ecco perché insisto, mi dispiace ripetere, e poi quando si ripete sembrano delle banalità, ma se io devo sapere dal governo marocchino, da quello libico, da quello tunisino, non soltanto se ci sono delle nipoti di Mubarak alla questura, davanti alla questura di Milano, negli uffici della questura di Milano, ma se quella persona che è stata recuperata in mare ha delle pendenze criminali o no, io devo avere un accordo con questi governi. Se i Rom che arrivano in Italia dalla Romania, e lì non c'è bisogno di niente, perché essendo la Romania paese Schengen, i nomadi, i Rom vanno e vengono come vogliono, ma se io voglio sapere se quei certi signori che sono sotto un ponte di Roma o di Milano hanno commesso dei reati, devo avere un contatto e un accordo con il governo rumeno, se no non vado da nessuna parte. Mm. Intanto guardavo sulla prima pagina di su Repubblica.it, sempre del vostro gruppo, Bruno, arrestato capo degli ultra del Milan, aveva un ordigno e altre armi, sapete che oggi c'è il derby. Ecco, fermato a San Siro, dove stasera si gioca il derby, Marco Righetto, 35 anni, leader del gruppo Commandos Tigre, che nomi, sulla sua auto un ordigno artigianale, 4 coltelli, una mazza da baseball e uno spray urticante, solito deficiente e in più pericoloso. Prima di dare la linea ancora per la prossima pausa, mentre c'è Giorgio De Luca che continua a ricevere le vostre telefonate, ancora almeno una telefonata prima di passare brevemente la linea, Manuel dalla provincia di Novara. Sì, buongiorno, buongiorno Roberta, complimenti a lei e alla redazione. Senta, io ho una domanda, osservazione da fare. Sì. Ma se, e cito la fonte anche, da cui mi sono qui attinto la cita, cosa. Cita, sì. È un libro di scritto a due mani con Rosario Priore, il vecchio giudice che ha avuto in mano le cause e i dossier più importanti delle ultime, gli ultimi casini italiani, degli ultimi 50 anni. Sì. E si chiama, altisonantemente, Intrigo Internazionale, citava la politica estera del dopoguerra italiano, soprattutto la cosiddetta quarta sponda. Io non lo sapevo, sono rimasto sorpreso nel leggere, ben documentata la cosa, ma noi abbiamo, dopo, negli anni 50 e 60, sostenuto Libia, le rivoluzioni della Libia e prima di Gheddafi, Tunisia in minima parte, l'Algeria addirittura in maniera militare, e contro chi? Contro quale sfera di influenza se non quella francese e inglese? Guarda caso, dopo 50 anni di questa bella storia, si sovverte la cosa, complice anche la miopia e una politica anche abbastanza banale, credo, del nostro attuale governo, mentre quello della vecchia DC o quel che era è stata anche geniale nel riuscire a tenere 40 piedi in 30 pantaloni, ecco. Sì, vuoi sottolineare insomma l'incongruenza? Sì. Andare a letto con Medio Oriente per petrolio e tutta la nostra indipendenza energetica, ecco. Adesso questi dicono, si sono fatti avanti, bombardano, si sono messi dalla parte della popolazione, delle masse arabe, hanno scommesso e stanno rivincendo la partita, e dicono, abbiamo percentuali ben superiori a quelle a vostre come immigrati, ecco, mi ricollego al caso Ustica, e voi con il vostro miserabile 4% di immigrati mi venite a rompere le scatole a noi, a me Francia, nella fattispecie, perché 100.000 immigrati vengono a bussare alla mia porta, teneteveli. Manuel, vuoi fare una domanda? E questo, potrebbe essere questo anche, in maniera molto meno evidente e meno pubblicizzata sui giornali, una risposta? Manuel, poi sentiamo, adesso devo proprio ridare la linea, sentiamo Bruno Manfellotto cosa ne pensa, anche se ti devo ricordare così banalmente che gli Stati Uniti hanno per tanto tempo sovvenzionato, armato l'Iraq contro l'Iran, poi visto che cosa ne è stato fatto dell'Iraq, insomma, gli equilibri geopolitici cambiano a seconda delle situazioni, dei periodi storici e delle convenienze naturalmente. 800 24 00 24. Proseguiamo allora col commentare insieme, come sempre avviene il sabato tra me e voi e quell'opinionista estemporaneo della giornata, le notizie della settimana. 800 24 00 24, tra poco c'è Luigi da Roma, c'è sempre come ospite, quindi come opinionista estemporaneo, dicevo, Bruno Manfellotto, direttore del settimanale L'Espresso. Tra l'altro, Bruno, ti avverto immediatamente, vediamo se la ritrovo, questa agenzia dell'ANSA che, visto che fa parte del vostro gruppo Repubblica L'Espresso, Sandro Bondi ha annunciato di far causa, insomma, contro Repubblica per diffamazione, per una cosa che si riprende anche oggi sulla prima pagina di Repubblica, lo scrive in una nota. La questione della Bonnef, la bulgara. Sì, della regista bulgara, che lui avrebbe, sì, in qualche modo favorito per un'assegnazione di un premio al Festival del Cinema di Venezia. Niente, ti volevo dire questa cosa, mentre invece ritorniamo ancora agli ascoltatori. Luigi da Roma, dicevo. Sì. Luigi. Pronto? Eccoci qua, Luigi, ti sento. Sì, dunque io volevo fare questo commento, intanto complimenti per la trasmissione. Grazie. Io sono un ginecologo che lavora a Roma, ma mi occupo di intercultura, ho una moglie ruandese, quindi insomma per forza di cose mi sono, e poi anche prima di conoscerla mi sono sempre occupato di quelli che adesso vengono chiamati cittadini di paesi terzi, non più immigrati. Da quanto sei sposato, Luigi, se posso chiedertelo? Da quasi 11 anni. Abbiamo tre figli. Un bel risultato. Sì. Dunque, io quello che volevo dire è questo, è che quello che mi pare che i nostri politici o ignorino, facciano finta di ignorare, sul problema dei rimpatri, che esiste una direttiva, è la direttiva 2815 della Comunità Europea, che è stata emanata il 16 dicembre del 2008 e aveva 2 anni di tempo il governo italiano per recepirla nella propria legislazione, dopodiché se non la recepisce diventa legge così com'è. Non l'hanno recepita ovviamente perché hanno impegnato in cose più importanti e dal 24 dicembre del 2010 è diventata legge. Con questa legge il problema dei rimpatri è regolato da questa direttiva, che è una direttiva molto aperta, che dice che bisogna assolutamente preferire il rimpatrio volontario a quello coatto, ma in maniera consistente. Prima della legge vengono descritti tutti i principi a cui si deve ispirare il modo di agire dei paesi membri, con dei principi assolutamente liberali. Vedi, Luigi, sicuramente, come tu dici spesso, le direttive europee in Italia vengono recepite con ritardo, poi si continua a rimandare perché, come dici tu, ci sono cose più importanti, tra virgolette, di cui occuparsi, però è anche vero che questa è una situazione un pochino diversa e che un intervento dell'Unione Europea, una solidarietà collettiva della comunità e anche il cercare di capire insieme come affrontare una situazione che è abbastanza nuova, e qualcuno dice era prevedibile, qualcun altro dice no, neanche gli analisti 007 eccetera avevano previsto un flusso così grande, per cui capisci, Luigi? Come no? Per esempio, però, sulla direttiva, che ripeto adesso è diventata legge del nostro Stato, solo che non è neanche conosciuta dalla maggior parte dei politici che vanno a parlare di queste cose anche in televisione, è il principio del non refoulement, cioè quando una persona arriva al confine io non la posso respingere se prima non ho capito perché entra, e non è un reato per esempio il voler migliorare la propria condizione anche se uno non ha un permesso di soggiorno regolare. Certo, no, no, Luigi, è proprio specificato questo. No, ma questo è chiaro, anche se, come ricordava anche Bruno Manfellotto, insomma, diventa difficilissimo soprattutto quando le persone arrivano a ondate e così cospicue, capire e distinguere chi è profugo, chi no, chi scappa perché è stato condannato e chi invece ha paura, insomma, di essere perseguitato. Però stavo guardando, che cosa guardavo qui su, eccolo, Bruno Manfilotto, mi interesserebbe sapere cosa ne pensi della possibile discesa in campo, come si usa dire da tempo, di Montezemolo, che ieri ha detto: beh, se la politica continua a essere questa, una politica di cui ci si deve vergognare, eccetera, mi sa che sono tentato. Intanto no, da... ti rispondo subito, però sì. se permetti, volevo solo aggiungere un elemento. Mi piacerebbe che ci fosse ad ascoltarci qualche funzionario di polizia o di prefettura, eccetera. Se ci fosse, ci chiami, è 800 24 0024, quello che diceva l'ascoltatore. Quello che io dico. Allora, facciamo finta che si prenda uno o più di questi ragazzi, di questi giovani che arrivano in Italia e li si voglia rimandare al loro paese, no? Sì. Allora, io sono pronto a, ripeto, chiedo di essere smentito. Oggi le questure, le prefetture, la polizia non ha la possibilità tecnica e materiale di prendere queste persone, metterle su un'automobile e portarle da qualche parte, o metterle su una nave e portarle da qualche parte. Non hanno i mezzi, gli uomini, i tempi per fare questa cosa. Quindi noi stiamo parlando di chiacchiere, noi stiamo parlando di, stiamo dicendo parole o brutte e volgari come quelle che ho sentito qualche settimana fa, qualche giorno fa da alcuni politici italiani, o di pura propaganda come ho sentito da altri, ma le cose concrete sono queste, cioè riconoscere il diritto di queste persone di essere o non essere in Italia, trovare il modo di sistemarle, oppure trovare il modo di riportarle al loro paese. E quale paese? Spesso non hanno i documenti, spesso non si sanno come, si sa come si chiamano, spesso parlano lingue incomprensibili ai nostri funzionari, insomma è un caos che non si può risolvere gridando qualche slogan. Anche se adesso vedevo sul Corriere.it il primo titolo è: Berlusconi, l'ospitalità è un dovere, noi paese di migranti, quindi è tornato anche Berlusconi a ricordare questa cosa, che siamo stati un popolo di migranti, però in questo momento forse crea un po' di confusione. Allora diciamo che questo bisogna ricordarselo per avere rispetto di chi viene, però poi il problema effettivamente è grosso e va affrontato, diciamo, con altre misure, con altri concetti. Riccardo da Roma. Eccoci, buongiorno. Buongiorno a te, Riccardo. Non è detto buonasera, pur essendo di Roma, no? Ti sei adeguato alla milanesità, tu? C'è una giornata così spettacolare. Solare, no? Che, perché di solito dalla Toscana in giù mi dicono buonasera. Sarà ancora fa tristezza, ce la vero? Ancora un po', godiamocela, Riccardo. Sì, godiamocela un po'. Buona giornata a te. Prego. A tutti, ovviamente. No, la questione è, sono d'accordo con Manfellotto quando dice non possiamo continuare a parlare a chiacchiere, insomma non si risolve quasi nulla o nulla. Il problema è che vorrebbe semplice. Non credo anch'io che le promesse che il Presidente del Consiglio ha fatto verranno mantenute, o almeno nella gran parte non verranno mantenute. Non mi sono presentato, sono un iscritto al PD. Quello che non capisco è perché, a furia di parlare di Berlusconi, invece di dire che cosa dovremmo fare noi, continuiamo a fare parole e a continuare a parlare male del nostro paese, del Presidente del Consiglio, che in qualche misura se lo merita anche, ma non dire cosa faremmo noi. Noi intendi il PD, a cui sei iscritto. Noi l'Italia, il paese, sono 150 anni, abbiamo appena compiuti, appena li festeggiamo, li continuiamo a festeggiare, siamo orgogliosi di essere italiani. Allora, ricordarsi dell'accordo, la direttiva europea, e dire che non l'abbiamo recepita, se non ho capito male l'hai detto te, lo ha detto lei, le chiedo scusa. Dammi del tu, ma lo diceva un ascoltatore, sì. Entro i due anni, Luigi da Roma, ma poi entrava in automatico. Entrava in automatico, voglio dire, era quasi, non è perché eravamo impegnati in altro che non l'abbiamo recepita, forse anche, ma comunque non era necessario, perché entrava in automatico, è entrata in automatico in vigore. La domanda vera è: com'è che in Francia se ne fregano? Perché alla frontiera lì? Allora, è chiaro che quando sono dentro non li puoi fare altro che trattare come vanno trattati tutti gli esseri umani, come noi vogliamo trattare gli esseri umani. Il problema è che non devono entrare, dobbiamo fermarli, dobbiamo bloccarli da qualche altra parte, con gli accordi, con i paesi rivieraschi del Mediterraneo, se no continuiamo a far chiacchiere. La Francia ci sta dimostrando che noi chiacchieriamo. In Francia fanno un bel gesto, muovono il pollice, lo accompagnano con le altre quattro dita per dire che noi italiani bla bla bla bla. Loro li hanno fermati. Bruno, non che so dici? Grazie, chiarissimo. Dico che il signor Riccardo dice una sacrosanta verità. La politica per il controllo dell'immigrazione più efficace è quella di investire lì dove sono le popolazioni che poi hanno la necessità di andare via, perché insomma dai paesi si scappa e si va via per due ragioni: o per fame, oppure perché si vive in regimi illiberali, regimi dittatoriali dove le risorse vengono distribuite fra una piccola lobby, no? Di potentati, e la gente si muore di fame, quindi questi scappano per questa ragione qui. Poi adesso, una volta c'era solo la televisione, adesso c'è internet e tutti i giorni e tutti i minuti tu vedi sul tuo computer o su quello del tuo amico, del giovanotto che va a scuola o va all'università, che cosa c'è nel resto del mondo. Quindi queste persone vogliono andare via perché vogliono andare, appunto, vogliono andare a stare meglio, vogliono lavorare, vogliono libertà, vogliono farsi una famiglia, vogliono comprarsi un frigorifero, eccetera. Guarda, a questo proposito, scusa Bruno se ti interrompo, io non chiedo mai gli sms durante la trasmissione, durante la diretta, preferisco le telefonate e parlarci chiaramente, voce a voce, insomma. Però mi è saltato così all'occhio un messaggio che è arrivato, un sms, di un ascoltatore, non si firma, che dice: il ministro degli esteri doveva da un pezzo organizzare campagne di informazione sul reale destino dei clandestini sia in mare che in Italia, propaganda capillare tramite i governi dei paesi dell'est. Spesso i clandestini vengono da noi perché ingannati da false informazioni e false promesse. Diciamo, può essere una proposta, non so quanto pertinente, Bruno. Che ne pensi tu se dicessero? No, ma dai, informazione è fondamentale. Prima questo tipo di informazione, anche questo tipo di aiuto alle popolazioni locali, e posso aggiungere anche una certa forma di politica estera, si faceva in Italia attraverso la cooperazione, no? Cioè si andava, non so, in Somalia e si insegnava, faceva i corsi universitari, la scuola, il liceo, eccetera, in Somalia, oppure si andava in Libia o in altri paesi dell'Africa, sì, con esperienze di solidarietà o, appunto, come dice la parola, di cooperazione. Quando, dopo la crisi che c'è stata, prima quella del 2001, poi quella finanziaria del 2007, i paesi hanno avuto, cominciato ad avere necessità di tagliare, noi abbiamo tagliato le spese per la cooperazione. Quindi noi praticamente abbiamo smesso di portare le nostre informazioni, la nostra cultura, il nostro modo di vedere le cose in questi paesi. Quindi è vero, questi hanno come unica fonte di informazione, prima avevano la televisione dall'Albania, ti ricordi? Sì, sì, sì. Vedevano Canzonissima la sera e volevano in Italia. Adesso accendono tutto rose internet, e fiori. Vedono che nel resto del mondo c'è la libertà e c'è una situazione economica mille volte meglio della loro. E siamo verso, insomma, gli ultimi 10 minuti, quindi se volete chiamare per dire qual è la notizia della settimana e esprimere le vostre opinioni, 800 24 00 24. Vi ricordo che poi la trasmissione la potete riascoltare in podcast, visto che siamo così tecnologici, sul sito di Radio 24, ma anche sulla pagina Facebook dedicata a Non ci sono più le mezze stagioni. Dovete cercare Roberta Giordano, Non ci sono più le mezze stagioni. Sempre con me in collegamento il direttore dell'Espresso, Bruno Manfellotto. Abbiamo trattato vari argomenti, ma soprattutto quello dell'immigrazione, visto che stava a cuore oggi alle ascoltatrici e agli ascoltatori. E adesso diamoci un po' di leggerezza, diciamo, se possiamo definirla in questo modo, galoppando verso il nostro Stefano Andreoli, l'ideatore di Spinoza.it, il blog satirico più cliccato della rete. Io ogni volta lo dico, ma questo lo dice lui, non l'ho ancora verificato. Stefano, buongiorno caro Stefano. Ha scritto anche un libro, Spinoza.it, certo. Un libro serissimo, una raccolta curata da me e Alessandro Bonino, che non citiamo mai, ma come me è padre di Spinoza, di battute satiriche, perché dietro ogni uomo c'è sempre un altro uomo, no? Poi che lo aiuta a fare anche diciamo le cose. Sono un grande uomo, non volevo dire grande uomo. Sì. Spalla. Comunque sono nella patria dell'ospitalità, la mia patria, la Riviera Romagnola. Oh, caro. Stai mangiando piadina tutto spiano. Ho appena mangiato una buonissima spaghettata allo scoglio. Sono così di buon umore che non ho nemmeno voglia di far battute. No, allora chiudiamo subito? Ma no, ha ragione Berlusconi, in fondo bisogna essere ospitali. Lui stesso poi è un emblema dell'ospitalità italiana. Certo. A casa sua ha ospitato concussi, pregiudicati. Sappiamo che Berlusconi parla con cognizione di causa. Sì. Veniamo alle notizie della settimana. Camera dei Deputati assediata da violenti facinorosi dall'interno, perché chiaramente sono viste scene apocalittiche, ma forse ben peggiori quelle capitate tra i banchi piuttosto che quelle capitate all'esterno. E infatti poi vorrei chiedere a Manfellotto dopo cosa ne pensa, anche una chiosa su diciamo, questa vivacità parlamentare. Prego. Chiamiamola vivacità, ma chiaramente dedichiamoci a Berlusconi. Un po' di tempo tra Gheddafi, Giappone, Libia, che non ci dedichiamo alle faccende di casa nostra. Quindi Berlusconi potrebbe essere un ottimo tema, visto che spesso la satira lo trascurano, questo Berlusconi. Effettivamente, mai capire citato, che ancora lui, il nostro fulcro, il fulcro della satira italiana, Lampedusa, l'isola scossa da una nuova tragedia, l'arrivo di Berlusconi. Questo è piuttosto banale. Berlusconi discorso a Lampedusa di Berlusconi è stato così convincente che i profughi sono tutti abbonati a Mediaset Premium. Alla fine è incredibile. Almeno un risultato, sì. Berlusconi però non ha rivelato dove verranno trasferiti i profughi. Beh. Quindi probabilmente finiranno su un conto svizzero. Come al solito, Berlusconi ha anche detto che costruirà un casinò a Lampedusa, vuole mandarci in esilio Emilio Fede. Ecco, questo un esilio dorato, sì. Diciamo così, chiudiamo con una notizia curiosa, come sempre, sì. Sempre sulle nostre chiusure. In un ospizio di Milano, in una casa di riposo per anziani, hanno trovato delle carte da gioco, non so se hai letto questa notizia, carte da gioco, che invitavano a votare Berlusconi, cioè carte da ramino che gli anziani usavano, ma con sul dorso inviti... Unire l'utile al dilettevole, diciamo, insomma, poche parole. Berlusconi, sì. Risalivano alle elezioni 2006 e queste carte appunto sono rimaste in questo ospizio, per cui per anni questi ospiti della casa di riposo hanno giocato con queste carte, diciamo, marchiate Berlusconi. Ovviamente erano carte plastificate. Molto bene. Grazie, la mannaia subito. Ciao caro Stefano Andreoli. Ciao, abbiamo tenuto anche più del necessario e direi invece di andare adesso verso l'altro fisso appuntamento che non possiamo perdere, quello con la nostra linguista Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, alla quale direi a questo punto, visto che ha fatto tanto discutere, ma ne abbiamo parlato forse per niente oggi qui, il termine prescrizione per il processo breve, quello che poi ha dato la scintilla, diciamo, che ha fatto scoppiare tutto questo bailame alla Camera. E che dici di prescrizione, cara Valeria? Che dico? Intanto che la parola antica, quindi già nel latino medievale, significava estinzione di un diritto. Ma in questo periodo si parla soprattutto di questa prescrizione breve, quindi di quella che appunto accorcia i tempi per gli incensurati, detta tra l'altro, ecco, Manfellotto che lì può confermare, insomma nei titoli dei giornali appare anche come norma salva Premier. Ma in ogni modo, visto che ci occupiamo di lingua italiana, vorrei solo ricordare che prescrivere, il verbo, significa stabilire, ordinare, e prescrizione significa ordine, comando, da non confondere con proscrivere, che le assomiglia ma è una cosa diversa, che significa abolire, vietare, censurare, e proscrizione che significa abolizione, condanna. Forse però, ecco, conclusione, chi tiene tanto all'approvazione della prescrizione breve e del processo breve, forse lo fa perché forse teme la proscrizione, cioè la condanna, chissà. Con questo dilemma vi saluto. Ma che giochi di parole e di vocali, grazie alla nostra Valeria Funambolica Della Valle. E direi, se Giuseppe da Lecce sei capace di sintetizzare la tua notizia, perdonami, in 33 secondi, così a Bruno Manfellotto lasciamo la conclusione sulla politica italiana di questo momento. Giuseppe, perdonami, breve. Sì, salve. Ciao. Niente, io vengo da una militanza di Azione Giovani e naturalmente vedendo le dimissioni del sottosegretario Mantovano volevamo constatare di persona cos'è che era successo e come mai il sottosegretario Mantovano aveva rassegnato le dimissioni. Si era arrabbiato per quello che è successo in Puglia con gli immigrati dislocati lì a Manduria, mi pare, in particolare. Sì, diciamo che sono andato lì sul posto e sono giunto alle 4 quando in pratica questi clandestini uscivano dal campo profughi e scappavano in mezzo alle campagne. La cosa che a me ha fatto davvero rabbrividire è che le forze dell'ordine non erano lì ad arginare quella falda che si era aperta. Cosa succedeva invece? Ma erano lì a fermare le persone del posto che erano in mezzo alla strada, che volevano bloccare le macchine, che comunque protestavano, e quindi vediamo questi clandestini che uscivano da queste... Grazie Giuseppe, perdonami, si sta aprendo la botola sotto la sedia. Credo a Bruno Manfellotto, direttore dell'Espresso. Bruno, abbiamo parlato poco di politica, dammi una chiosa tua lapidaria su queste sedute, diciamo così, esuberanti di questi giorni. Abbiamo 22 secondi. Guarda, le sedute esuberanti, le parolacce, le accuse di aver cambiato pusher, perché si è sentito anche questo, sono, diciamo così, soltanto il suono di un problema molto più grave, cioè che sono almeno 7-8 mesi, a voler essere proprio ottimisti, che il Parlamento non fa più il Parlamento. Cioè da 7-8 mesi il Parlamento non produce altro che leggi di politica giudiziaria per rinviare i processi del Presidente Berlusconi o tentativi di produrre leggi per rinviare questi processi. Per il resto, tutti i provvedimenti più importanti che riguardano l'economia, il sud, il lavoro, gli investimenti, le spese pubbliche, eccetera, eccetera, sono bloccati. Faccio un esempio solo per, proprio di due secondi, per chiarire. Sì. Il decreto che ha istituito la festa del 17 marzo è stato fatto dal governo il 22 febbraio, è entrato in vigore subito, deve essere approvato per diventare legge entro due mesi, entro il 22 di aprile. Ancora non è stato approvato. Ancora lì che giace, insomma. Aprile dolce dormire, tra l'altro, questa è l'aggravante. Grazie Bruno Manfellotto, direttore dell'Espresso, e da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti. A tutti.